Un benvenuto a tutte e a tutti, questa è Oxygen, la trasmissione di musica elettronica di Radio Samarcanda Digital Network, in voce con voi Amptech. Ho aperto questo spazio con il nuovo singolo di One Trick Point Never, che si chiama Dim Stars, un brano inedito seguito da una versione più lunga di un brano che invece era contenuto nell'ultimo album pubblicato da Warp Records, quindi un singolo con due brani per One Trick Point Never. Nel frattempo è uscito anche un nuovo lavoro di Psylob, che aveva rilasciato un album che, devo dire, non mi aveva entusiasmato particolarmente, abbastanza tradizionale, con un'elettronica un po' anni 80, ma Psylob si è ripreso facendo uscire immediatamente dopo un ulteriore extended play che si intitola Show Us Another World Is Possible. Psylob. We'll be right back. You're listening to Oxygen for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. For your heart, for your soul, for your brain. This is Oxygen. E questo era Psylob qui a Oxygen, il suo nuovo lavoro che si intitola Show Us Another World Is Possible, che segue un altro disco completamente diverso, meno sperimentale, ma questo dei due lavori è quello che preferiamo. Andiamo avanti con il nuovo singolo di See Feel Until Now, l'abbiamo già ascoltato, prelude il nuovo album che dovrebbe essere in circolazione a giorni. Si feel. E vi ricordo, siete all'ascolto di Oxygen dalle frequenze di Radio Samarcanda Digital Network, che vi ricordo che potete ascoltare sia via streaming dal sito www.radiosamarcanda.it, ma anche via DAB, ovvero la nuova tecnologia del digitale terrestre radiofonico, che è inserita d'obbligo europeo in tutti i veicoli immatricolati dopo il 2018, quindi lo potete ascoltare tranquillamente anche in mobilità nella vostra autovettura. Andiamo avanti. Dopo Si Feel, che rappresenta una delle novità in uscita su Warp, con il disco più atteso dell'anno, ovvero il nuovo album di Square Pusher, ovvero Tom Jenkinson, una delle figure più rappresentative dell'elettronica britannica degli anni 90, insieme ad Aphex Twin, un bassista tra l'altro eccezionale di scuola jazz rock. Si sentono gli influssi di Jacob Astorius, di Marcus Miller, ma questo lavoro, già con le anticipazioni che aveva rilasciato Warp, fa intravedere una direzione molto diversa da quella a cui ci ha abituato, un molto più sperimentale. Ascoltiamone alcuni estratti, non faremo una panoramica generale su tutto l'album perché è molto ostico. Intanto ascoltiamo K1 Advance e altri due brani, tra cui uno dei singoli che compongono questo album, Kammer Concert, Square Pusher. We'll be right back.

oxygen for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is oxygen. Allora, questo era Square Pusher, alcuni estratti da Kammer Concert, un disco completamente diverso da quelli che Tom Jenkinson abitualmente ci ha proposto, lontano dall'emisfero dance, vicino a una sperimentazione che richiama in qualche modo alcuni dischi di Frank Zappa, fortemente influenzati da Edgar Varese, uno dei più importanti compositori del Novecento, ma ci sono anche influssi di Webern, di Messiaen, di vari autori della musica colta accademica, cosiddetta musica contemporanea. Quindi Square Pusher si è voluto confrontare con la sperimentazione classica del Novecento, utilizzando invece, oltre a tutta una serie di strumenti che suona direttamente anche lui, ma utilizzando una specie di orchestra virtuale da camera, che è pilotata chiaramente da sequencer e da computer, realizzando un disco molto particolare, uno dei migliori dischi del 2026, ma che rimane comunque un disco non semplice. Andiamo avanti con un'altra novità, si tratta di Valentina Magaletti e Apsemmi, che realizzano in coppia questo album decisamente interessante che si chiama Seismo. This is oxygen. You'll listen to Oxygen. For your ears. For your heart. For your soul. For your brain. This is Oxygen. Questi erano due estratti dal lavoro di Valentina Magaletti, un'artista di stanza a Londra, malgrado la nazionalità italiana, una percussionista, compositrice, con Absemi, un lavoro che si chiamava Seismo. Andiamo avanti con un'altra anticipazione invece di un album che ancora deve uscire, che è quello di Idle Tech, che normalmente pubblica su Planet Moon Records, che realizza questo singolo The Ice Is T. Thin, Idle Tech. E vi ricordo, siete all'ascolto di Oxygen dalle frequenze di Radio Samarcanda Digital Network, in voce con voi Amptech. Abbiamo ascoltato questo singolo di Idle Tech, che dovrebbe anticipare un album che promette molto bene, a sentire il singolo. Andiamo avanti con un'altra produttrice che si è fatta notare da Aphex Twin, che ha inserito alcuni suoi brani dentro i suoi DJ set. Si tratta di Cavari, e Cavari fa uscire questo singolo che si chiama semplicemente Please. Thank you. Questa era Cavari o Cavari con il singolo Please, rilasciato da pochi giorni sulle piattaforme. Ma andiamo avanti con un'altra artista. Questa volta si tratta di una produttrice italiana che si fa chiamare Ewa, sempre a distanza a Londra, che realizza insieme a Flor un singolo che si chiama Pirexia, rilasciato il 14 aprile. Thank you. E vi ricordo, siete all'ascolto di Oxygen dalle frequenze di Radio Samarcanda, Digital Network. Quello che abbiamo ascoltato è il singolo di EUA con Flor che si chiama Pirexia. Andiamo avanti con le novità con G. Jones ed Eprom, un duo abbastanza conosciuto che abbiamo avuto occasione di ascoltare varie volte, con il nuovo singolo, anche questo rilasciato da pochissimi giorni, che si chiama Break of Dawn. In voce con voi Amptech, abbiamo ascoltato il nuovo singolo di Eprom con G. Jones. Andiamo avanti con le novità, altro singolo, ennesimo, che rilascia Speedy J, uno dei più importanti produttori europei di musica elettronica, di dance, dagli anni 90, su Stur, quindi prodotto direttamente da lui, CTRSS Psalms 17 Cold Render, il titolo della traccia, Speedy J. We'll be right back. your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. Questo era Speedy J qui a Oxygen, uno dei produttori olandesi più conosciuti anche in Italia. Andiamo avanti con le novità. Oramai è abitudine quella di rilasciare dei singoli brani come sulle piattaforme, non esistendo più la forma del supporto fisico, è diventata un'abitudine abbastanza consueta. Andiamo avanti quindi con Terras, si chiama la traccia, lui è Dom Carlo. Oxygen for your ears, for your heart, for your brain, for your soul. This is Oxygen. Thank you. questa era Don Carlo che ha fatto innalzare la tensione ritmica della trasmissione. Manteniamo questa direzione. Nuovo lavoro di Human Space Machine che si chiama Perception Field, un extended play con 5 tracce. Ci ascoltiamo quella di apertura, The Field. Thank you. Human Space Machine, nuovo extended play con 5 tracce. Andiamo avanti con le novità. Keepsakes, anche egli fa uscire un nuovo extended play che si intitola Dystopian Euphoria. Keepsakes. We'll be right back. soul. This is oxygen. Thank you. E dopo Keepsakes abbiamo ascoltato una traccia sempre nuovissima appena rilasciata di Jane Richards Jr. che si chiamava Research. Ma andiamo avanti sempre con la stessa, nella stessa direzione, con Benjamin Mull insieme a The Advent, che farà uscire un extended play a quattro mani, Source 004, la traccia sotto la mia voce. is Oxygen. E questo era Just Doc a Oxygen. Andiamo avanti con il nuovo lavoro di Luis Fauci, The Hall of Cycle, il titolo della traccia. Thank you. questa è sempre Oxygen in voce con voi, Amptech. Questa Luis Fauci, nuovo lavoro che si intitola Beneath the Starface, un extended play con 6 tracce. Andiamo avanti con un altro prodotto rilasciato da poche settimane. Si tratta di Ignatz, il brano è I Meet You. I remember. E questa è sempre Oxygen in voce con voi, Amptech. Questo era Agnes, nuovo lavoro. I Met You, titolo del brano. Andiamo avanti con un altro personaggio che sta facendo uscire moltissimi brani sfusi sulle piattaforme, un DJ leggendario che viene direttamente da Detroit, Robert Hood, Harrows, il titolo del brano. E vi ricordo che siete all'ascolto di Oxygen in compagnia di Amptech. Abbiamo ascoltato Robert Hood, Herrovs, il titolo della traccia. Andiamo avanti e chiudiamo la parte in voce della trasmissione. Vi ricordo che continuerà fino alle prime luci dell'alba con una serie di DJ set, live set scelti e curati da noi. Andiamo avanti con KNTZ, Stasis 01, una traccia di chiusura veramente potentissima. volume. The volume. The volume.